America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. Il presidente Barack Obama riceverà oggi per una colazione a porte chiuse Mitt Romney, il primo incontro fra i due ex avversari alla Casa Bianca. Che si diranno? Beh, parleranno soprattutto di fiscal cliff, cercheranno di proiettare un'immagine bipartisan. C'è la parte umana, naturalmente, ve la racconteremo quando poi avremo saputo che cosa si sono detti. Intanto la borsa ieri è andata un po' meglio, c'è un po' di ottimismo a Washington sulle questioni di bilancio, ma non voglio parlarvi oggi di questioni politiche, vorrei piuttosto parlare di un evento in divenire che riguarda l'Italia. That's Amore, Dean Martin, grande canzone italo-americana, una canzone che ormai fa parte della cultura di questo paese. Dean Martin, italo-americano, That's Amore è una grande, lunga storia d'amore fra gli Stati Uniti e l'Italia e la cultura italiana, perché insomma gli italiani dalla primissima immigrazione a metà dell'Ottocento fino ad oggi hanno portato uno straordinario contributo a questo paese. Da oggi vorrei dedicare alcune puntate in avvicinamento a un evento importante che si terrà il 12 dicembre, che lancerà l'anno della cultura italiana negli Stati Uniti. Il 2013 sarà l'anno della cultura italiana negli Stati Uniti. Di questo ne abbiamo già parlato alcuni mesi fa, ne parlai a suo tempo con il ministro degli esteri Terzi, ma per darvi un'idea dello spaccato e della presenza reale in questo paese, beh, insomma, pensiamo soltanto all'impatto che ha avuto una canzone come questa. Volare. Ecco, Volare credo che sia forse una delle canzoni più conosciute in America, tant'è che ci sono state una gran quantità di versioni, per esempio questa di Bobby Riddell. Pensiamo poi all'impatto del cinema, non soltanto Fellini, non soltanto Visconti, non soltanto Bertolucci, ma un'attrice come Sofia Loren, che resta un'icona del simbolo della bellezza italiana ancora oggi. E poi ovviamente nella moda, Armani, Valentino, Ferragamo, insomma decine e decine di marchi che hanno fatto storia in America. Tra l'altro ciascuno di questi creatori di moda ha sviluppato degli importanti rapporti con Hollywood, con il mondo del cinema, quindi c'è stato questo straordinario connubio dove appunto questa parte della cultura italiana ha trovato un suo sbocco in quella che è una delle massime espressioni della cultura americana, cioè la cultura hollywoodiana. Per esempio Armani si è molto legato, e qui dobbiamo dirlo perché ci sono poi gli italo-americani, una gran quantità, che sono molto legati al nostro paese, con i quali poi scambiamo questo rapporto culturale. Vi dicevo, Armani per esempio si è molto legato a Leonardo DiCaprio ben prima che DiCaprio fosse la straordinaria stella del cinema che poi è diventata. Ma sentiamo alcuni dei protagonisti della moda, sentiamo Zegna per esempio. In parte sono stato educato negli Stati Uniti e il mio primo lavoro lo iniziai qui proprio a New York, per cui io devo tanto a questa cultura e a questo paese, che è stato un po' una scuola di vita e una scuola di lavoro per me. O sentiamo Carla Fendi, che non più tardi di qualche giorno fa ci ha raccontato come è arrivata in America. Sono venuta per lavoro e devo dire che ho sempre guardato l'America come un sogno. E quando sono venuta volevo fare nelle sfilate che stavamo facendo, e sono venuta con un viaggio ISCE. Poi il viaggio ISCE finiva a New York e io invece sono rimasta con mia sorella per affrontare tutti i buyers americani della pelliccia. La cultura italiana è anche scienza, abbiamo una gran quantità di scienziati, non soltanto per esempio nella medicina o nelle scienze fisiche, ma per esempio nell'elettronica, che hanno contribuito davvero a delle svolte importanti qua in America. Dunque questo evento il 12 dicembre sarà un evento a cui parteciperà direttamente il ministro degli esteri, e come vi dicevo alcuni mesi fa l'ho sentito, gli ho chiesto di darci un'idea di che cosa poteva essere questa esperienza culturale fra Italia e Stati Uniti. Ne abbiamo parlato poco prima che ci fosse un evento culturale che secondo lui era rappresentativo di quello che poteva essere il rapporto Italia-Stati Uniti, un evento che si era tenuto a Roma alcuni mesi fa. Sentiamo il ministro Terzi. Certo, la dinamica del 150esimo è stata un'esperienza è un punto di partenza, ma quello che credo si voglia sottolineare nel 2013 è qualcosa di diverso, cioè vogliamo far leva sull'esperienza del passato appunto per guardare agli apporti che il nostro paese può dare. Faccio un esempio, fra pochi giorni avremo a Roma un importante convegno che vedrà la partecipazione mia del Ministro dell'Università e Ricerca, il Ministro Profumo, con la partecipazione di molte voci italiane nella ricerca nel mondo. Naturalmente ci sarà una rappresentanza dagli Stati Uniti, proprio perché lo scopo è quello di aggregare ancora di più coloro che si fanno fautori di reti informatiche, di associazioni, di organizzazioni che vogliono creare dei punti d'incontro fra scienziati e collegarli meglio alle amministrazioni, al governo italiano, alla realtà italiana. Ecco, stabilire una continuità d'azione. È in questo senso che io vedo anche la programmazione della cultura italiana negli Stati Uniti nel 2013. Ecco, avete sentito il ministro. Comunque il filo conduttore di questo 2013 è rappresentato dal tema ricerca, scoperta e innovazione e dunque l'obiettivo è ripresentare l'Italia in tutte le sue sfaccettature come un paese che è all'avanguardia nella sua modernità innovativa, non soltanto nella moda o nel cibo, ma nella scienza, nelle produzioni di qualità, nella produzione della meccanica avanzata. Pensate, le macchine utensili italiane vendono cose straordinarie qua in America, e tutto questo è espressione poi di radici profonde, un'eccellenza che ha radici profonde in una cultura millenaria. Dunque c'è un calendario molto ricco di eventi, ce ne sono, credo che siano ancora in definizione, però ce n'erano 150-160, che daranno uno spaccato di quello che è il meglio del nostro paese. La cultura e l'identità italiane saranno promosse, presentate e declinate un po' in tutte le aree che la caratterizzano. Gli appuntamenti, il calendario, vi dicevo, il 12 c'è il primo appuntamento a Washington con una mostra su Michelangelo, una scultura di Michelangelo che per la prima volta arriva in America, quindi si parte con un Big Bang. Saranno coinvolti poi nel corso dell'anno, in collaborazione con l'ambasciata, consolati generali, istituti italiani di cultura, da est a ovest, un po' tutte le città americane, da Washington a New York, Los Angeles, San Francisco, Houston, Chicago, Philadelphia, Boston, Detroit, Miami, insomma un po' dappertutto in America. Continueremo a seguirlo, ne parleremo ancora nei prossimi giorni, cercando di cogliere l'occasione per esplorare nel dettaglio ciascuna di queste sfaccettature che rappresentano una straordinaria ricchezza del nostro paese, molto molto apprezzata negli Stati Uniti d'America. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di cultura italiana, abbiamo inaugurato una serie dedicata alla cultura italiana, cultura che non soltanto quella contemporanea, ma è anche quella che si è formata con gli immigrati, quegli immigrati che hanno plasmato l'America e continuano a tenere viva la nostra e la loro eredità culturale. Dunque dedichiamo la canzone del giorno a un grande, immortale cantante italo-americana, Frank Sinatra, Forget Domani. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow, for tomorrow never comes. No money, forget the money. Let's live for now and anyhow, who needs the money? The moonlight, let's share the moonlight. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!